Melog. Cronache meridiane. Di Gianluca Nicoletti. Stagione che si annuncia carica di novità. Dal ritorno a Milano di Rischiatutto, lo storico quiz di Mike Buongiorno con Fabio Fazio su Rai 3, all'arrivo della Jalapas nel pomeriggio domenicale di Rai 2 con Nicola Savino in Quelli che è il calcio. Tornano i gol alle 18 con 90esimo minuto su Rai 2 e per Rai 1 c'è la conferma di Carlo Conti alla direzione artistica e alla conduzione di Sanremo, forte del successo. Tenetevi forte, quante novità nella televisione italiana, sentite, hanno promosso il nuovo palinsesto Rai, Fabio Fazio farà Rischiatutto, Carlo Conti condurrà Sanremo e ci sarà 90esimo minuto. Questa è la televisione per rincoglioniti, prodotta da 50 anni, 60 anni, sempre per le stesse persone e sempre dalle stesse persone. Si affaccia all'orizzonte però un nuovo competitor, un produttore televisivo che produce con mezzi eterodossi rispetto alle grandi macchine dei network tradizionali e sta comunque in qualche maniera, in maniera molto incisiva, proponendo dei prodotti mirati per un certo pubblico anche italiano. Questa mattina vi farò l'analisi di un video che è stato diffuso proprio in questi giorni e secondo me prodotto in maniera specifica perché lanci un messaggio, lanci un segnale, devo dire molto spettacolare, in cui non si è badato a mezzi, non si è badato a mezzi di produzione. Il video è circolato da un giorno circa, in molti giornali è accennato, altri emittenti televisive hanno posto il veto, non faremo più vedere questi video, noi invece ve lo raccontiamo essendo in radio. Ve lo racconterò, ve lo descriverò punto per punto assieme a Bruno Ballardini che è accanto a me, buongiorno Bruno. Buongiorno a tutti. Esperto di marketing e comunicazione strategica e per questo lo chiamo, perché secondo me questo video fa parte, ma lo dico da mesi, lo diciamo da mesi io e Ballardini, oggi anche illuminati programmi televisivi come quello di Formiglia hanno cominciato a dire quello che qualche mese fa sembrava un'eresia, che in realtà c'è una strategia di marketing dietro i video dell'ISIS. Sì, perché di questi parliamo. Ricordo che Bruno Ballardini è anche autore di un libro che è nato proprio da quello che ci siamo detti molte volte in questi studi, Il marketing dell'apocalisse, ISIS, edito da Baldini e Castoldi. Vi faccio una piccola anteprima, il video è ambientato in un deserto, pare in Iraq, Bruno? Sì, in Iraq. È ambientato in Iraq, è un bello scenario, sembra lo scenario di un villaggio vacanze che promette una bella vacanza. Il preambolo che i soliti quattro uomini in tuta arancione, tute perfette, perfettamente stirate, ammanettati, vengono portati dentro una vecchia automobile parcheggiata in mezzo al deserto e adesso suspense, vi dichiacciamo quello che succede. Il fermo immagine che ho davanti è un signore di spalle con un passamontagna, con una tuta mimetica, anche lui nuova di zecca, che ha un bazooka sulle spalle. Sta prendendo la mira verso la macchina dove sono le quattro persone, Bruno. Ecco, questo è un RPG che buca la macchina come il burro, esplode all'interno e il dettaglio è che si sentono le grida di questi che muoiono bruciati vivi dopo l'esplosione. Quindi sono stati anche microfonati in qualche maniera? Sì, tutto microfonato con la solita cura. La cosa interessante è che questo non è prodotto dalle solite case di produzione, cioè Al-Hayat e Al-Furqan, ma è dal Vilayat di Ninive, cioè dalla provincia di Ninive, che significa che lo Stato islamico si sta organizzando per fornire, di dotare di unità media ogni provincia. Io ho già contato almeno quattro telecamere diverse, quattro inquadrature, fanno vedere. Adesso un'altra inquadratura, si vede quattro catene con quattro moschettoni attaccati a una gru, una gabbia di ferro, sembra costruita apposta. Vengono accompagnati degli uomini, da sempre il solito guerriero con la tuta perfetta, tutti a testa bassa, tutti in una posizione quasi prona, tenuti per il collo e chiusi dentro la gabbia. Sono ammanettati. Guarda i primi piani dei volti delle persone, i piedi nudi delle persone. Ecco, notare che alla gabbia sono state fissate delle GoPro per poter filmare anche sott'acqua le reazioni di quelli che stanno affogando. Cioè il modo le GoPro sono tremendo. Le piccole telecamere impermeabilizzate per fare riprese sott'acqua. Ecco, viene spostata con la gru, la gabbia di ferro viene lentamente immersa in uno stagno. Sì. Gli uomini sembrano molto tranquilli però, come mai? No, stanno pregando. Ah, stanno pregando. Sanno che per loro è il momento finale, quindi pregano. Adesso stanno prendendo le ultime boccate d'aria, se possibile, per resistere, ma insomma è uno sforzo disperato. L'acqua gli arriva alla gola, in questo momento stanno cominciando a saltare, si avvinghiano le mani sul bordo alto della gabbia, adesso sono sommersi c'è un gorgoglio. Siamo sott'acqua. E questa è la ripresa sott'acqua delle GoPro. Stanno filmando l'agonia di queste persone che stanno affogando. È la prima volta che vediamo un affogato. Questo è l'esatto contrario del pilota Giordano bruciato vivo. E con quattro persone nella gabbia, l'escalation, è, come diceva anche Rapoport, è che per evitare l'effetto di assuefazione che tutti i media dei terroristi comporta. Ecco, riemerge la gabbia in questo momento, ci sono quattro cadaveri. Impressionante, perché i cadaveri sono riusciti a infilarsi la testa dentro le sbarre della gabbia, che sembrava impossibile. Questo è proprio l'ultimo respiro e fa schiuma dalla bocca. C'è uno dei morti che... Mi dispiace per la Maggioni che non ci fa vedere queste cose, ma noi le raccontiamo lo stesso. Perché hanno sfocato questa immagine, secondo te? Che si vede e non si vede? Perché fa più effetto intuire, immaginare. Altro stacco, andiamo avanti. Nel deserto sempre una fila di persone, li conto, sono sei... Gli stanno mettendo al collo un cavo blu che si veda bene. Un cavo blu penso sia un cavo elettrico. No, è un cavo di esplosivo. Ah, di esplosivo. Qui ci sono, diciamo, degli esplosivi. Sì. Sono sette persone, tutte inginocchiate. Stanno mettendo questo cavo blu. Sembra l'arredo di un albero di Natale. Sono pronti a aspettare, perché adesso daranno l'impulso elettrico. Cominciano a saltare le teste. Anche qui varie inquadrature, c'è un montaggio. Una dopo l'altro salta le teste, poi vediamo il totale. Saltano pezzi, gli uomini sono fatti a pezzi alle cariche esplosive. Ecco, questo è un nuovo stile nella decapitazione, serve per rendere più spettacolare. È un gioco perverso per il cinema. Rivediamo il totale con un'altra telecamera ancora, che fa vedere tutte e sette le persone in contemporanea. C'è la slow motion alla fine, di nuovo, per ripetere la scena. E poi il risultato finale sono le teste separate dai corpi. C'è un particolare di primo piano orribile, di una testa esplosa con la mascella staccata. Non si hanno mai viste le cose così. Allora, Bruno Ballardini, vi abbiamo fatto vedere un esempio di televisione. Questa è televisione a tutti gli effetti, molto più una televisione che ha in sé una sorta di product placement interno, nascosto. Leggo sui giornali che Obama ha dato il... Questo è molto interessante. Sì. Nel finale si vede un prigioniero che osserva la scena da un'altura e vede quello che sarà il suo prossimo turno, cioè è come se... È il punctum di questo l'appuntamento messaggio. L'appuntamento, come dire, continua. Ecco, qual è il rapporto fra questa televisione che è stata costruita proprio perché gli occidentali la guardino, ci riflettano, ci sono degli escamotage da Spectre, sembra vedere quei film di 007, ti ricordi, i cattivi gli facciano sempre delle esecuzioni, tentate esecuzioni sempre spettacolari, sommerso negli squali, poi lui si salvava sempre perché aveva dei marchingegni. Che mente c'è dietro queste esecuzioni e qual è il disegno finale? C'è una regia molto abile, una strategia di comunicazione che mira a diversi obiettivi. Qui addirittura abbiamo un mai visto prima all'interno di uno stesso video tre target colpiti. Ad esempio il primo col bazooka assomiglia, perché si vede la soggettiva di chi sta sparando, ai giochi, ai videogame sparatutto. Esattamente, la soggettiva del combattente o del giocatore. E questo colpisce il target giovanile perché manda proprio in entusiasmo, in invisibilità, i giovani che vedono questa scena come se fosse di un videogame. Loro che sparano un videogame. Intanto do il numero 800240024. Vorrei il vostro commento alla televisione che abbiamo raccontato. Il contrasto è forte rispetto ai morbidi e zuccherosi palinsesti con Fabio Fazio che fa rischia tutto, ma qualcun altro sta producendo televisione. È televisione che circola, è televisione vista. Probabilmente avranno visto già questo video molte più persone di quante vedranno il rischia tutto. Ma oggi, per quanto sia, i media sembrano assuefatti. Noi dicemmo con Ballardini qualche mese fa, dovranno cambiare il palinsesto, dovranno inventare nuovi format. E ci hanno sorpresi altri nuovi format. Ne esco una settimana nuova. Sono sorpreso molto di più dall'operazione di dividere in vilayat, in province, quindi siamo alle TV locali. Questa è una TV locale, non è lo Stato Islamico, è firmato Stato Islamico, è come dire Rai Regione Campania, Rai Regione Lazio, eccetera. Però quindi si è articolato un network vero e proprio. Si sta articolando ulteriormente. Quindi diciamo che ogni provincia ha la sua capacità, i suoi mezzi produttivi e la sua inventiva. Un altro video che abbiamo visto proprio giorni fa è ancora più spettacolare e più sintomatico. Un uomo crocifisso che vengono tagliate la mano e il piede. Sì, questo poi in realtà non è altro che quello che fanno anche in Arabia Saudita, alleato degli Stati Uniti. Cioè nessuno dice queste cose, ma soprattutto io vedo che la vera vittima in tutto questo è il giornalismo. È morto il giornalismo perché nessuno ci informa più su quello che sta veramente accadendo, come ad esempio in Turchia, dove hanno appena scoperto giorni fa un cunicolo che permetteva il passaggio delle truppe dell'ISIS dalla Turchia alla Siria. È una cosa, tu l'hai detto qui, mi ricordo, tempo fa, di una gravità inaudita. La Turchia era il punto di passaggio, la Turchia è crescente di questo è uno degli stati che stanno aiutando l'ISIS. Senti, mi dici il rapporto fra quello che oggi leggo sul paginone del Corriere della Sera, il dietro fronte di Obama sugli ostaggi, ha autorizzato il pagamento dei riscatti. Obama dice adesso anche le famiglie possono pagare i riscatti. Finora l'hanno fatto a Umm sottotono, senza dirlo. Con questo video dice guarda cosa potrebbe succedere ai vostri cari, e con diciamo il permesso di poter pagare, si profila proprio come in realtà proprio un'operazione di marketing. Ti spavento al punto tale perché sai che devi pagare, sennò questo succede ai tuoi. Sì, non solo, ma dà il via al finanziamento ufficiale dell'ISIS. Questa è una cosa molto strana, perché quello che si è detto fino adesso è la strana incertezza di Obama. Obama ha adottato una politica ambigua, non incerta. È una strategia anche l'ambiguità, io ne ho parlato in un capitolo, cioè ci sono documenti che giustificano questo nuovo corso che serve per dare un po' un colpo al cerchio e alla botte, valutando l'opportunità. L'obiettivo è aspettare che l'ISIS vada avanti fino a Damasco e butti giù Assad, questa è la verità. Quindi stanno facendo crowdfunding a tutti gli effetti, cioè mandano un video emotional per dire ci servono soldi, pagaci. Assolutamente. Ecco, tu mi stavi dicendo prima sul cambiamento anche del sistema di produzione. Ora, non vorrei sembrare spietato, questi esseri umani sono stati realmente uccisi, e secondo me è la prima volta nella storia dell'umanità che la morte viene rappresentata in questa maniera capillare, spettacolare. È la versione nel tempo della civiltà dello spettacolo, dell'esecuzione in piazza che si faceva fino al 1860 in Italia, con la ghigliottina, con la ruota e via dicendo. Sì. Oggi però cambia qualcosa. Sì, diciamo, da questo punto di vista non cambia niente, nel senso che tutti i video, soprattutto i più lunghi, sono dei film che sono molto apprezzati nella comunità, nello Stato Islamico, e vengono regolarmente proiettati in piazza su maxischermo. Sono educational. Sono degli educational, ma sono anche lo spettacolino che il parroco al Baghdadi ammannisce ai suoi fedeli. Come noi facciamo vedere la vita di Don Bosco, loro fanno vedere questo. Nicola, buongiorno. Buongiorno Nicoletti e buongiorno anche a Ballardini. Buongiorno. Io ho letto, sto leggendo il suo libro e mi piace moltissimo. Ringrazio. Purtroppo, anche se i temi sono un po' troppo ghiaccianti. È un po' troppo. Senza, vabbè, fa pubblicità. È realistico di quello che sta accadendo, sì. Purtroppo. Naturalmente. Giustamente lei sottolinea a Ballardini riguardo al fatto che la nostra televisione è monodirezionale e ci condiziona, anche se non comprendiamo l'immensità non solo di ISIS ma anche degli altri argomenti, no? Quindi inevitabilmente c'è una specularità che però è incondizionata. Questa era più una constatazione. Volevo fare un'ultima domanda e la lascio in pace, Ballardini. Secondo lei sa che nell'Islam c'è una specie di allontanamento dell'immagine per scopi religiosi? ISIS non è anche un po' una contraddizione per la filosofia, la vera filosofia islamica? Dico tutto qui. Allora, grazie. Senta, Ballardini, devo passare la linea all'informazione del traffico, purtroppo, ma questo è ciò che mi compete. Tienti in caldo la risposta al nostro ascoltatore, che la diamo esattamente fra pochissimi secondi. Melog. Cronache meridiane. Ed ecco un processo sommario con i metodi di ripresa e montaggio sapientemente usati e le scenografie adatte. L'imputato è una spia e infatti questo filmato si chiama Scoraggiare le spie 1, lasciando presagire puntate successive. L'uomo deve dire nome e cognome, deve denunciare complici, ma sarà il suo accusatore a farne i nomi. Poi, accompagnato nel deserto, viene crocifisso. È la prima volta che questo metodo viene usato, quantomeno mostrato dalle telecamere dell'ISIS. Il terrore però non finisce qui, ma noi scegliamo di mostrare solo i primi fotogrammi dello scempio in cui gli vengono amputati una mano e un piede. Come spetta, sostengono. Lo scempio, come ci ha detto Ballardini, è qualcosa che normalmente avviene nelle piazze in Arabia Saudita. Non è che è meno scempio mettere un uomo su un lettino a croce e fargli un'iniezione letale. Però il metodo che attraverso cui ci vengono propinate queste immagini. Mi scrive un ascoltatore, Ballardini, voi che li fate vedere, ne parlate, siete complici, terroristi pure voi, vergognatevi Paolo. Si guardi Rischia Tutto con Fabio Fazio e quindi non si vergognerà. Allora rispondiamo alla domanda dell'ascoltatore di prima. Ma no, non è una contraddizione la cancellazione delle icone secondo l'Islam eccetera. Cioè in realtà poi non è l'Islam, attenzione. L'ISIS si riferisce al credo wahhabita, che è una ideologia estrema che vorrebbe cancellare tutto il resto dell'Islam, proponendosi come unica religione islamica. Quindi non fa testo da questo. Qui sono iconoclasti per tutto ciò che riguarda, cioè, ogni rappresentazione comunque. Tutto, da quello sciita a quello stesso sunnita, che per loro non ha ragione di esistere perché è troppo moderato. Loro sono sunniti di una frangia estrema. Wahhabiti, salafiti, eccetera. Questa cosa fa sì che si tenti di cancellare tutto il resto, e lo fanno sia uccidendo sia distruggendo i monumenti dell'Islam stesso. Questo è molto importante. Per loro non esiste dignità di esistenza, neppure di un retaggio storico, perché contraddice quello che per loro è l'unico dettame della legge. La legge degli uomini corrisponde alla legge di Dio. Francesco. Sì, salve, buongiorno. Mi veniva in mente, mentre vi ascoltavo, che, e ve lo chiedo a voi, non è che alla fine questa tam-tam mediatico a livello mondiale che portano queste immagini, di fatto alimenta loro stessi a continuare, leggendolo proprio all'inverso? Non è che se in qualche modo ci fosse un oscurantismo a livello mondiale su queste cose, loro non saprebbero più cosa fare? Allora, stacca il filo alla rete internet, perché io posso anche non parlarne, allora, oggi potrò parlare di Rischia Tutto, ma milioni di persone l'hanno visto. Dicevo, il segno è che loro stanno alzando l'asticella. Certo. E lo stanno alzando, e ci sarà un motivo, probabilmente come i lanci spaziali della NASA nel 1969-70, quando poi si perse proprio l'interesse per i lanci degli Apollo. Esatto. Cioè, alla fine ci vedo questo, loro devono alzare, perché in realtà si perde. Allora, perché si perde? Perché probabilmente se loro non hanno visibilità, loro muoiono. Esatto. Però una cosa, scusi Francesco, noi facciamo, io almeno faccio il mediatore, io c'è un fenomeno, devo raccontarlo e devo cercare, se possibile, di dare delle letture attraverso gli strumenti che resto a individuare per dare letture più profonde. Non posso far finta che non accada. Il vostro lavoro lo fate bene, io sto dicendo che forse è come dire involontario. Ma è comunque sì, ma è ineluttabile, da quando c'è la rete internet. No, si poteva fare un grande cartello di tutti i giornali del mondo e dire non parliamo dell'ISIS, ok, ma con la rete internet anche la signora va a fare la spesa qua sotto, accende il suo smartphone, lo vede. Quindi bisogna mediarlo, bisogna comprenderlo, bisogna parlarne il più possibile, secondo me. Bruno, posso? Sì, prego. No, io volevo dire soltanto questo: io preferisco andarmi a informare direttamente su internet, sui canali dell'ISIS, piuttosto che sentire le panzane che raccontano i nostri giornalisti. Faccio un ultimo esempio: ad esempio il quotidiano Il Tempo se n'è uscito recentemente con la notizia che 30 terroristi sarebbero entrati in Italia. Sarebbero, non sono, significa forse, chissà, si dice, mormorano, qualcuno ipotizza. Queste non sono notizie. Questa è fuffa, significa semplicemente alimentare il gossip, alimentare l'intrattenimento, cioè anche se in modo negativo, c'è chi ha il gusto per l'orrore, no? La paura. Tenere calda la bistecca sulla graticola. Sì, ma senza la bistecca. Senza la bistecca. Sai, invece cosa c'è di nuovo, visto questo video stesso che è stato divulgato, c'è anche una versione integrale che tu hai visto, ma hai linkato. Sì, diciamo come da rituale, il video integrale ha tutta la parte precedente, inizia con l'interrogatorio. Anzi, prima addirittura ci sono le scene dei danni dei bombardamenti causati dalle infiltrazioni di spie irachene che collaborano con la coalizione. Quindi è più a uso interno la versione integrale, più didattica, sì, per i guerrieri stessi. Per giustificare quello che si vede alla fine, che è l'esecuzione. Cioè, prima vi facciamo vedere le colpe, poi gli facciamo il processo, che è stata davanti a una macchina fissa, camera fissa con fondale buio dietro, dove questi raccontano chi sono, cosa fanno, perché l'hanno fatto, sono pentiti, eccetera, eccetera. A volte sono anche drogati. A volte sono proprio disperati e accettano di dire qualunque cosa. Dopodiché si passa all'esecuzione. Questo viene proiettato anche nelle piazze. Però il calcolo mi sembra intelligente. a noi non ce ne importerebbe niente, come in un film porno andremmo avanti velocemente a vedere poi l'esecuzione. A noi ci danno solo il clou, diciamo il condensato. Sì, ci danno il condensato, anche perché in realtà è tutto in arabo, non si capisce niente, no? Le scene invece si capiscono. Però la versione integrale ha un suo valore didattico come strumento di propaganda interna. Marco, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Io volevo dare praticamente ragione all'altro conduttore, non ho seguito bene il nome perché sto lavorando, Bruno Ballardini. E quindi gli volevo dare ragione, e credo che il problema grave, ci siano due grossi problemi in questo periodo. Il primo, che la qualità dell'informazione, parlo dell'Italia che è l'esperienza di tutti i giorni, è decadente, cioè proprio siamo nel medioevo dell'informazione. Perché? Perché si punta a fare business, numeri, ma poi di qualità di informazione zero. E poi comunque siamo una civiltà che credo che in questo periodo stiamo vivendo in terza persona, tendiamo a vivere in terza persona molte delle parti della vita, quindi ci siamo distaccati dalle piazze, ci siamo distaccati in posti dove altre comunità stanno prendendo piede. Marco, è chiaro quello che dice, Marco dice una cosa molto giusta, siamo ormai una civilizzazione mediata, siamo abituati a stare in poltrona e vedere il mondo che ci scorre avanti, quindi è molto più efficace che scendere in piazza con i cartelli e farci sentire il tumulto della folla, arrivare al nostro smartphone. Coincide con quello che stiamo dicendo. Sì, però c'è schermo e schermo, intendo dire, qualche volta provate a spegnere la televisione e accendete internet, imparate a selezionare le notizie e andarvele a cercare, dovete avere un ruolo attivo. Il ruolo attivo significa tornare all'epoca della caccia, quando noi vivevamo di caccia, adesso potremmo nutrirci di notizie procurate autonomamente, confrontando, imparando a usare il cervello e analizzando quello che abbiamo davanti, non bevendoci tutto quello che viene dalla televisione. Ballardini ha scritto un libro usando le fonti aperte, che sono nel linguaggio degli agenti segreti quelle che tutti hanno sott'occhio, basta cercare e avere tempo, voglia e strumenti per cercare. Grazie Bruno Ballardini, grazie alla prossima. Voi.